Officina emotiva. Questa sera, martedì 20 febbraio 2007, ore 21:30. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca Smallville, Vicenza. Ci vediamo lì. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. D'Agostino, musical, mental, un DJ con le palle. Chiamate i vostri genitori. Verdi va. Qui c'è musica che pesta. Suona il maestro e roba onesta. È il cammino del Gigi D'Agostino. basta niente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Tanto, poco, niente. So molto poco, anzi, niente. L'uomo sa niente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. L'uomo sa niente. L'uomo fino. E come Aristotile, Cottile, chiaramente le cure. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni.

Cemento, Gigi D'Agostino e lento, violento. Ciao, sono l'inventore del lento violento. Me ne vento. Suona la testa, mi vibra il pavimento. Gigi D'Agostino è lento, violento. A volte incazzato, ma mai meschino. Ti puoi fidare, è Gigi D'Agostino. Attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino. 3, 3, 3, 6, 4, 6, 7, 6, 6, 2. Capito come? Cammino del Gigi D'Agostino.

Este programa musical mental, ole, me gusta mucho macho. Qué cacho. We'll be right back. Ci sentiamo domani. Grazie.